le differenze tra filosofia e scienza. E forse proprio la scienza, la nuova epistemologia, cioè il nuovo studio del metodo di riflessione umana, cioè che la situazione culturale si traduca in situazione politica. Allora dicevo, di questa cultura immanentista che sono per un verso il fascismo, per l'altro verso l'antifascismo. Però se vuoi rimanere qui, se la tua è quella appunto è il discorso, mi rende proprio questo appunto è il secondo passaggio, no? Fascismo e antifascismo che vengono raccontati come fratelli e nemici. Per cui in sostanza, non c'è né l'uno né l'altro, riescono a darsi una giustificazione storica, proprio perché dipendono dalla stessa cultura, dallo stesso orizzonte culturale, per cui il giudizio dell'uno sull'altro non può essere altro che un tipo paradiano, che in sostanza non è più un discorso, cioè virtù di un'espressione paradiana. Di qui appunto la conclusione del discorso di Annunzio, e cioè in sostanza la necessità, no, del ritorno alla linea di pensiero tradizionale per fuggire appunto a questo ampasso, a questa falsa alternativa, a questo falso problema che sarebbe appunto questo falso dilemma secondo del nome. È chiaro che questa interpretazione, che è la domanda che volevo fare, finisce con infossi in polemica anche con quanto hanno scritto dei personaggi di grosso valore, non soltanto italiani ma stranieri, tanto per fare dei nomi, ma per citare il nostro, suo lavoro sul fascismo, prodotto in italiano nel titolo Tre Volti del Fascismo. Titolo che sarebbe forse poco il senso dell'opera del Nord, e per altro verso, da una prospettiva di Lukács, no? Nel suo lavoro sulla situazione della regione. Finisce con l'essere chiaramente in polemica perché queste espressioni mirano entrambe a far vedere come l'esito finale delle posizioni di pensiero irrazionalistiche per l'uno, reazionari in senso più lato per l'altro, finiscano, concludano nel nazismo, no? Nell'opera del Nord c'è questo passaggio, l'azione francese a un certo Sì, punto. il parallelo è brillantissimo e interessantissimo, perché il parallelo esiste senza dubbio, è vero, tra le due epoche, ma non ricordiamoci troppo, non. Il presente non deve invadere eccessivamente no, arrivo subito il campo alla del domanda. passato. Dicevo, questo discorso di Annunzio serve semplicemente appunto per dire che l'Italia esiste questa continuità di quel filone pensiero che è stato segnato dall'appunto Giovanni. Ora io vi domando, nella cultura germanica esiste, e in particolare appunto esiste la continuità di questo filone così autoprevalente che arriva, come si dice appunto, a portare il bacino al prenatismo. Esiste dopo oppure no? Per esempio, mi viene in mente un autore tedesco, che è su posizioni abbastanza simili a quelle del nome, Spengler, che però non so fino a che punto sia riconducibile a questo ambito di cultura appunto austro-germanica, austro-bavarese, pur avendo insegnato e insegnando credo tuttora a Monaco. A Vienna e poi a Monaco. Vienna, America, Monaco, America. Il quale muove delle critiche al nazismo e al fascismo proprio da questa prospettiva, sostenendo che questi movimenti sono in sostanza movimenti gnostici di massa, e in virtù del carattere minuscolo che si troverebbe almeno uno Da wollen die Herren antworten? Herr Lukas? Ja, also für den deutschen Raum ist ja gesagt worden, dass diese diese Tradition in Bayern zum Beispiel besteht und jetzt also auf der Ebene von Zeitschriften etwa, vor allen Dingen kann man sagen, in dem Görres-Kreis in Bayern repräsentiert wird durch die historisch-politischen Blätter. Und diese Tradition geht einmal bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg doch. Und vielleicht kann man sagen, dass diese Tradition ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg noch wieder aufgenommen worden ist, etwa von einer Zeitschrift wie dem Neuen Abendland von Emil Franz. Na ja. Das ist schon also auf einem etwas niedrigeren Niveau, aber immerhin ja. Das kann man sagen. Ich habe auch gerade an Emil Franz gedacht. Man könnte da noch, also Sie haben schon Vögelin erwähnt, man könnte auch einen Mann erwähnen wie Dietrich von Hildebrand, der sich etwa ganz scharf gegen das Zweite Vatikanische Konzil ausgesprochen hat. Mhm. Dietrich von Hildebrand criticava molto dal campo cattolico il cavallo di Troia nella città di Dio. Ma questo sono e poi come non tanto tempo. Sì, ma è il Begriff für Ganzheitsforschung um den Walter Heinrich und so weiter, die da in Hochfilzen ihre Tagungen machen, aber sono veramente diventato piccolissimi gruppi, piccolissime sette che non hanno nessuna incidenza nella vita culturale, forse. L'unica cosa che veramente abbia avuto un certo eco da questo filone di idee, se lei dice, sarebbe nella storia dell'arte il libro del Sedlmayr, volutamente che adesso ho tradotto. Ja, bitte. Am Ende, zu Ende des 19. Jahrhunderts, hat die österreichischen Klerus eine sehr starke Strömung ultramontanistisch mit Nationalliberalismus kombiniert gegangen. Denken wir gerade mit dem Professorenkollegium und der Biologischen Fakultät war Deutschnational. Ja, aber das ist also schon, das ist ein bisschen früher. Aber Sie wollten noch was sagen. Ich möchte im Moment reinsetzen zu sagen, ich glaube, ich würde den Unrecht, wenn man in der dritten Reihe der Faschismus-Theoretiker rechnet, die untersteht, der sich da Nein, das war nicht gedacht, Faschismus-Theoretiker, sondern also Faschismus-Kunst, dann haben wir hier eine gewisse, wie man sagen, Tradition der Ideen, das heißt, wenn die im Faschismus wieder zum Tragen kommen. Nein, er ist ja selbst ein Gegner des Nationalsozialismus gewesen, der emigriert und so weiter. Aber er ist auch einer, der den Faschismus und Antifaschismus hier sozusagen auf eine Linie führt und dagegen den Traditionalismus stellt. Insofern kann man ihn hier auch sagen, zusammen mit dem Robert Ingrim etwa auf einer niedrigeren Basis, auf einer polemischen Basis. Das, was man jetzt in Italien die Theoria degli opposti estremismi nennt, gegen den Totalitarismus aller Richtungen eben den Traditionalismus wieder betont. Aber bitte, ich habe Sie unterbrochen. Ich wäre missverstanden worden, wenn ich Bildung des Faschisten rechnen würde, sondern wir sind bemüht, den Faschismus zu erklären. Ja. Auch das wieder glaube ich nicht, sondern hier geht es tatsächlich, Sie sagen hier, um diese konservative oder traditional bestimmte Stimmung, die von solchen deutschen Daumen gab, zu erklären. Der Faschismus, jedenfalls, wenn ich die gegenwärtige Geschichtsschreibung in der Bundesrepublik überblicke, eben in Wirtschaft und sozialpolitisch bestimmte, da spielen derlei Überlegungen gar keine Rolle mehr. Das war in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo man versucht hat, auch internationales Kapitalismus zu großen Katastrophen zu erklären, wo man auch versucht hat, die große Linie von Luther über Bismarck zu Hitler zu führen und ähnliche Dinge. Aber es ist, glaube ich, das hat sich. Ja, eine Abwendung von der Ideengeschichte, eine ganz allgemeine. C'è un staccamento dalla storia. La signorina aveva. Prima volevo condividere un istante al problema delle notizie cattoliche, volevo mettere in un'idea, volevo importante, perché le notizie Perciò abbiamo avuto un periodo di primi anni della formazione in Italia, soprattutto per la nascita del movimento cattolico da lontano e soprattutto hanno dato una spinta, diciamo, a tutti una stampa periodica che tutti in Italia mancava, almeno in parte cattolica da lontano. E quindi infatti c'era il studio di notevole, un buon numero di pedofili nella società italiana. Si può ricordare a Napoli tutto l'Enciclopedia degli Arti del Morale fondata da Ventura nel 1921, oppure a Modena le memorie di religione morale e letteratura fondata da Baraldi, oppure ancora abbiamo annunciato la Musia Cattolica. Quindi tutta una serie di periodi che hanno un'importanza notevole per comunicare, diciamo, gli intenti di molto cattolico, che è una gestione che non ha di tipo da potere al gruppo del Papa, dall'altro quello del trono. Appunto, praticamente ha un'importanza anche soprattutto nelle rapporti, per esempio, con la Francia, che hanno un po' di quando diffondono le vie e dottrine anche di francesi tradizionalisti, che anche se si parla di una tradizionalista, come appunto per esempio la Menet, che viene prodotta nel 1919, proprio dalla Lico d'Italia, che è un giornale che appunto ha realizzato la sua parte anche di Matteo, fondato anche dall'Europeo, e viene appunto diffuso quindi anche in Italia, quindi siamo diffusi in Italia, tutte le dottrine, anche di Montrout, e quindi notevole strumento, diciamo, per la diffusione. In Francia, se ne conti, era nei dibattiti, erano sempre stati molto più violenti, più passionali, in quanto come la carta costituzionale sarà prima delle due libertà. Cosa che in Italia sono venuti anche delle condizioni politiche da sempre mancare. Quindi direi che sono importanti anche lo stesso impulso appunto a questo torre, una stampa per l'odio, quindi diffusione di dottrine anche che mantiene il genere e quindi sconvogliare finalmente i consensi, anche diciamo proprio per togliere il femminista, cosa che tutto domani tutto in Italia in maniera maniera assoluta, tutto ciò che altro non è vero. È importante anche per esempio a tutti i nostri italiani, che comunque lavorano in un'università, quindi anche un'influenza. Sì, però Svini rappresenta più l'altro filone. Sì, ovviamente, però d'altra parte anche il Cattolico della Musica di come potrebbe dire che anche le memorie di religione morale, letteratura, sempre si può dire, no, tutto bene. Sì, sta su un influenza, quando sono nato anche in questo tutto. Grazie, ha detto la signorina, non tanto che piace. Io posso rilevare che questa relazione di stamane del professor De Mattei è stata estremamente esauriente, non solo perché non ha suscitato in fondo grossi problemi intorno a sé, ma perché anzi è stata tanto suggestiva di problematiche da creare intorno tutta una serie di interventi collaterali. E direi che questo è proprio il valore stimolante di tante relazioni. E allora permettetemi che dopo queste fughe in avanti io faccia una fuga indietro, ma con una domanda. E il problema è questo. Lei stamattina accennava alle società segrete, costituite società segrete, insomma organizzazioni segrete, istituite dai gesuiti dopo la soppressione e che poi rimangono in contatto con le nuove amicizie che sorgono in questo momento. Le confesso che di questi gruppi io ho sentito parlare, ma conosco molto poco. Quali caratteri hanno questi raggruppamenti gesuiti prima della visita? Se la domanda può essere pertinente, perché sappiamo benissimo che non possiamo andare fuori. Ecco, era questo, vi domandavo, perché io avevo presente, per esempio, durante il periodo napoleonico, di alcuni altri ordini religiosi che tengono scuole sono soppressi. Sono i sommaschi, sono gli scolopi. I rappresentanti di questi ordini religiosi mettono l'abito borghese, diventano di colpo professori laici, prendono l'amministrazione dei beni che li hanno requisito e conducono e la scuola e l'amministrazione dei beni, pronti a rientrare in possesso appena il periodo napoleonico è finito. Ora, mi domandavo quale tipo di organizzazione si danno invece i giuristi. Sì, dunque, tutte le società segrete cattoliche, cioè non soltanto quindi le amicizie, nascono praticamente sul tronco delle congregazioni mariane, che sono, possono essere considerate un po' come il terzo ordine dei gesuiti. Le prime società segrete cattoliche di cui abbiamo notizia risalgono attorno al 1630, sorgono quasi contemporaneamente, che sono la 1630, cioè in periodo di controriforma, e infatti il loro scopo è quello della, diciamo così, appunto, santificazione personale e santificazione del prossimo attraverso, nella difesa della fede, diciamo così, in Europa, che è già l'Europa protestante, quindi lascerata dall'eresia, eccetera. Ma in questo senso lei se le ricollega con intervolmenti pietisti, no, implicazioni per paura di quelle proprio società segrete e proprio specifiche con le quali c'è un rapporto diretto con l'amicizia, cioè in Francia le AA, che credo, cioè è discusso, insomma, l'assemblea anonima probabilmente significa, e poi più celebre la Compagnia del Santo, del Santissimo Sacramento. La Compagnia del Santissimo Sacramento ebbe vita breve, una trentina d'anni, tra il 1630 e il 1650, fu fondata, mi sembra, dal Duca di Ventadour, e ne fecero parte Bossuet, Ollier, San Vincenzo de Paoli, cioè tutte figure, diciamo così, di spicco dell'epoca, e quindi, diciamo così, è piuttosto così conosciuta, perlomeno di nome. Molto invece più sconosciuta è questa AA, che fu fondata nel collegio dei gesuiti di La Flèche, per Bagot, infatti gli davano il soprannome di Bagotien, all'interno, diciamo così, dei membri più zelanti, più devoti di queste congregazioni mariane. Erano gruppi, diciamo così, ristrettissimi. Essendo società segrete e mancando quindi di documentazione, è difficilissimo trovarne, diciamo così, la continuità storica fino alla Rivoluzione Francese. Comunque sappiamo che, appunto, se la Compagnia del Sacramento fu soppressa nel 1650 più o meno, invece quell'altra società segreta, la AA, sopravvisse fino alla Rivoluzione Francese. E quindi in quel periodo intrecciò rapporti con le amicizie. Sì, ma con un programma di difesa dei beni, di penetrazione e propaganda nel territorio protestante, di propaganda entro l'ambiente protestante nella Commissione Cattolica. Le dice le prime? Sì, cioè, ma quale programma? Ma no? Il passaggio sostanzialmente è quello, cioè le amicizie ci dimostrano il passaggio da una concezione, diciamo così, controriformistica a una concezione controrivoluzionaria, in questo senso. Che, diciamo così, sostanzialmente fino alla Rivoluzione Francese, fino all'Illuminismo, eccetera, la società, diciamo così, è nelle sue strutture esterne, ufficiali, è ancora la società cristiana, è una società evidentemente, diciamo così, già molto diversa dalla società medievale, però è stato tutto un processo economico, culturale, eccetera, che l'ha trasformata, l'ha resa profondamente diversa, però nelle strutture esterne, non so, in Francia rimangono ancora i tre stati, che sono gli stati generali, è dell'opinione del mondo germanico che il Medioevo finisce alla Rivoluzione. No, per la Germania finisce con 1914. Comunque, nelle strutture, diciamo così, esteriori, non nella sostanza. Cioè 48 anni, in Austria si dice il Medioevo finisce col 1848. Anche in Germania. Questo è un problema, complesso, dico però che, diciamo così, fino a quando esistono ancora queste strutture, cioè fino appunto alla Rivoluzione, diciamo così, è possibile, cioè la società è una società che va diventando, dove, diciamo così, dilagano le impietà, l'incredulità, i principi illuministici, però è ancora possibile, diciamo così, una riforma interna della società. E quindi, diciamo così, effettivamente l'attività è soprattutto un'attività, diciamo così, di tipo spirituale, cioè è molto meno politica sociale. Nel momento in cui, diciamo così, dopo il fenomeno rivoluzionario, quando, diciamo così, i principi, quello che fino allora poteva essere, diciamo così, una cultura o un costume anticristiano, si trasferisce dal piano della società al piano proprio di quelle che sono le strutture interne, cioè quando dopo la Rivoluzione francese nasce proprio una società che anche nelle strutture, quindi non solo nello spirito, ma anche nelle strutture, è una società diversa. Allora ecco che nelle amicizie, come in tutte le altre società segrete, c'è il passaggio a una forma appunto più propriamente politica, e cioè quella che dicevo prima di tipo contro rivoluzionario. In-house participation in display in dance and diversion pictures are normally supposed to sense of this same upset to play any part of the activity. It's a bit easy to see a hand playing these parts in me. In public data preparation in this memorandum from these parts and therefore the other is now teachers and guides in our e Vuoi sapere se Fetispach ha avuto contatti con quel triumvirato anti-giansenistica, cioè Migazzi, Kerens e il terzo Grampi, che era fino all'84 a Vienna. Sì, cioè il cardinale Migazzi, almeno appunto in una fase, era, cioè nella sua ultima fase, era simpatizzante dell'amicizia. Qua vedo sul Bona, a proposito dell'attività dell'amicizia viennese, una delle attività era quella delle missioni popolari, no? E il cardinale Migazzi aveva ottenuto il consenso dell'imperatore per queste missioni popolari che furono, diciamo così, dovute all'attività del Bismarck, eccetera. Infatti dice, nonostante gli allarmi e gli interventi della burocrazia statale, il movimento ispirato dal Bismarck e sostenuto dal Penckler e dal cardinale Migazzi portò al ristabilimento delle missioni popolari in Austria. È esplicita la seguente testimonianza risalente ai padri della fede, che trova conferma nella biografia del cardinale Migazzi. Le 25 missioni che erano state date al tempo del giubileo, dove si erano fatte 200.000 comunioni, erano opera dell'amicizia cristiana. Allora, Migazzi ha questo. Questo è quello che so sui Ma mi interessa, e sarebbe ancora una ricerca da fare, cioè bisognerebbe trovare a Vienna questi archivi, non so che fine abbiano fatto, finora né il Bona, nessuno li ha potuti consultare, questi archivi di questo barone Penckler, sarebbe una ricerca interessante, cioè in realtà un libro sul Bismarck è ancora da scrivere, non so appunto. Sono pochissimi i dati che abbiamo su Soggiorno a Vienna. Comunque uno degli scrittori che ne parla, no? è lo storico Johannes von Müller. Insegnatore Dante di storia dell'arte Duca Giovanni. Sì, esatto. Potrei immaginare che fosse Kerens. Chiamando istituita non lo so, questo francamente non è la signorina. Sì, dica. Come non appunto di queste società segrete, anche sì, senz'altro, ce l'ho qua. Posso... Ah, vedete. No, no, perché si è migliorato. No. Nel momento della preparazione del viaggio di Dio stesso a Vienna, in questo ambiente abbiamo avuto contatto con quella mente, penso di sì, è molto presto, presumibile. Sì. No, una cosa che forse non ho capito bene, lei ha parlato di quel libro che avrebbe scartato la connessione di Silva. Ha dato un nome o non no, sa? No, il nome che dà il Lanteri è un... È un libro che si chiama Les Regarments de la Raison, che è però un libro che è stato scritto qualche anno dopo, quindi dà il nome di un libro sbagliato, quindi non deve essere, io non ho fatto il nome perché non deve essere stato quel libro perché è stato pubblicato dopo, quindi non si sa qual è stato questo libro reale. E l'altra domanda era, in Italia i ecclesiastici giovanili dopo la risoluzione del problema, secondo me, l'esposizione vanno tutti dalla parte conservatrice. No, ci sono altri che vengono gli egilisti. No, non ho detto questo. Ci sono altri che vanno veramente dalla parte opposta, radicale, come avviene in Austria, perché si vede che anche in Austria tra i giacobini e l'Europa c'è una parte notevole di... Anche in Italia. Posso, adesso una domanda che mi sembra si ricollega a quello anche del dottor Hirsch. Abbiamo parlato ieri della relazione giansenismo-illuminismo. Per quel che io sappia, i primi che l'hanno fatto e questo famoso progetto sono stati proprio i nemici. È stato questo famoso progetto di Bourg-Saint-Étienne, che proprio dire che è una affermazione dei conservatori che dicono che nei primi anni, nel 1621, Jansenio, Arnaud e tutti quanti, i primi si sono incontrati a Bourg-Fontaine in una foresta vicino a Parigi e abbiano deciso di allontanare il popolo da Cristo, cioè con la loro teoria giansenistica, mettendo delle esigenze cattoliche così alte che il popolo deve disperarsi a non andare via per finire nel ateismo e nel illuminismo. E poi il secondo è proibendo così facendo disprezzare il Papa e i Gesuiti, i migliori difensori della fede, proibendo al popolo di fare la comunione frequente, eccetera, e cioè un disegno satanico dei giansenisti che produce la incredulità del XVIII secolo. Per inaridire la pietà del popolo, e poi dicono, e la conferma, il beweis, che questo è vero, è che adesso vediamo veramente il popolo è meno credente, c'è dappertutto l'ateismo dilatante, eccetera. Ora, questo progetto, questa idea, mi sembra molto tipico per gente che loro stesso sono in una società segreta, eccetera. Può dirmi se questo progetto di Bourg-Fontaine è veramente stata creata dalle amicizie o è stato soltanto propagata? No, il libro che si occupa di questo progetto di Bourg-Fontaine è opera di un certo Sauvage ed è anteriore alla creazione delle amicizie. Io penso che senz'altro che sia stato letto dal Wiesbach, che sia stato letto negli ambienti delle amicizie, però non ho trovato il titolo del libro, insomma, sono i verbali, nei libri che nomina. Quindi è un libro, appunto, che probabilmente... Quando è uscito? Io non so, quando è stato... È uscito attorno al 1775... Allora, dopo la soppressione della compagnia di Gesù. Non sono sicuro sull'anno preciso, però. Ma però viene da quella stessa matrice. E in questa prospettiva è interessante che i programmi di riforma della pastorale, teologia pastorale, a cui si accennava stamattina, che volevano una semplificazione, si preoccupassero però anche della posizione opposta, non però creiamo posizioni troppo rigorose, rigorose non per un lassismo, ma per un eccessivo cerebralismo e per un intransigentismo ascetico, asettico, perché a loro volta queste allontanerebbero dalla fede. Quindi, in questo senso, in questo caso, diciamo, preoccupazione pastorale della metà secolo Settecento è contro i due estremi, non accetta il rigorismo. Das ist also früher relativ kritisch auch. Und da geht es auch ja der Ritual, sein berühmtes Buch, das ganze Nicht-Interesse. Ich schenke Feste die Kinder. Aber wichtig ist vielleicht, gerade in diesem Zusammenhang, dass dieses Buch in Deutschland noch später nachgedruckt worden ist. Und zwar von den Ausfuhr-Exchef-Mitten, die, und das ist vielleicht das Problem, wo Thema sehr interessant, die haben schon in den 80er Jahren von 1783, eine ganze Serie von Jesuiten, auch eben die ganzen Nisten, die sie ausgeladen haben, die Ex-Jesuiten, die auch gut August haben. Sehr lange Zeit, neueste Sammlung jener Schriften, die vor einigen Jahren über verschiedene Schriften geredet werden, zu Säulen der Wahrheit im Drucker sind also auch eine Ausschrift von Ex-Jesuiten. Und dies auch in diesem Verhältnis vor. Und vielleicht ist dann auch die Unierte nicht so richtig. Es wäre fast interessant, dass die Jesuiten jetzt auch die Ausstellung von eigenen Taschen nach dem Propagand in der 40 Bände in 5 Jahren nach dem Propagand. Ich muss sagen, das ist auch. Hat er gesagt, ja? Bei Ihrem Vortrag folgender Parallelismus aufgefallen, in der Phasenverschiebung bestätigt, von dem ich jetzt frage, möchte ich jetzt ein bisschen Eindruck in der Beobachtung nicht zudrücken. Ein Parallelismus hinsichtlich der sozialen Funktion der Geheimgesellschaften, einerseits in der Aufklärung, andererseits als Motor der Aufklärung, andererseits als Motor der Reaktion. Wenn man einerseits die Logik nimmt, andererseits diese Geheimgesellschaften, also Amitie und so weiter. Und Rosenkreuzer und. Ja, in den Logen wird ja, das ist ja auch mittlerweile bekannt, die angestrebte bürgerliche Gesellschaft antizipiert. In den Logen treffen sich ja Adel und Bürgertum und die Stände schwanken hinten nicht statt, deswegen kann man ja zueinander Bruder sagen, aber es funktioniert nur in den Logen, deswegen muss man eine Geheimgesellschaft machen. Denn wenn man es nach außen fragt, das wäre der Zeit der Revolution, die feudale Gesellschaft abschaffen würde. Das funktioniert nur in den Losen, nachher tatsächlich gekommenen Bürger in die Gesellschaft antizipiert. Und in diesen Geheimgesellschaften scheint ja nun der Versuch gemacht worden zu sein, dass das Rad der Geschichte wieder zurückgedreht wird. Denn die kennen ja offensichtlich wieder eine ständige, aber doch hierarchische Gliederung. Vielleicht nicht in den Logen selbst, aber wenn Sie sagen, dass es verschiedene Arten von Geheimgesellschaften gibt, etwa sagt der Hörer, mit dem ganzen, mit der Oberschicht und die Frauen, die weiter unten sozial angesiedelt sind, so manifestiert sich darin ja auch das Gesellschaftsideal der Restauration, wenn man das Buch von Allerdings Restauration der Staatswissenschaften, da ist jetzt nur die Gesellschaft wieder zugunsten einer strengen hierarchischen Gliederung. Abgeschafft. Die Frage, kann man das so in dieser Form als Parallelismus verstehen? Haben Sie die Frage an Sie? Le società segrete, le logge massoniche anticipano l'uguaglianza borghese della società borghese, però si può dire fratello uno all'altro, l'aristocrazia e la borghesia vivono insieme, ma solo nelle logge, perché altrimenti sarebbe già, diciamo, la fine della struttura feudale o gerarchica. Mentre ha l'impressione che nelle società segrete, amicizia, eccetera, si cerca di ricostruire anche la gerarchia sociale, che per esempio, ma questa era da me solo così una osservazione, Sacré-Cœur piuttosto l'aristocrazia, l'altro ordine piuttosto il borghese, eccetera, cioè di ricostruire l'ordine naturale delle... mi sembra questo, che mentre l'illuminismo, non solo il fenomeno massonico, eccetera, è un fenomeno borghese, quindi diciamo così, certamente diciamo così anti-feudale, anti-aristocratico, però diciamo così è molto limitato. Invece è interessante diciamo notare come in tutto quel fenomeno delle insorgenze europee, abbiamo citato la Vandea, abbiamo citato il Tirolo, nei giorni scorsi sono citati in Viva Maria, possiamo aggiungere in Italia le Pasque Veronesi, la Santa Fede, via di questo passo, assistiamo sempre diciamo così, a un sollevamento diciamo così, da parte popolare proprio in funzione antiborghese, cioè c'è quasi una alleanza aristocrazia, popolo contro la classe borghese che... Però bisogna rendersi conto che nelle logge massoniche c'è veramente l'aristocrazia e la borghesia, e in un certo periodo nelle logge massoniche loro sono egalitarie, però hanno una fortissima percentuale aristocratica. Vero. Però sono un tipo di aristocrazia differente, non so, per esempio per quanto riguarda la Francia, generalmente l'alta aristocrazia va nelle logge massoniche, eccetera, invece, non so, nel fenomeno vandeano, eccetera, vediamo che quella che insorge è la piccola nobiltà, Ferriera, il contadino, eccetera. Sì, ma erano gli Orleanti, erano, diciamo... Sì. Bene, allora... Schluss what? Vogliamo? Bene, no, sì, se vuoi dire... Se loro... credo che non c'è più... avete voi qualcosa da dire come conclusione o tanto? Nonostante...